Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Eccoci qui, in questo 18 aprile era la prima elezione della Repubblica, quella in cui De Gasperi trionfò nel 1948 ed è quella in cui invece il quorum non c'è stato. Comunque, santi del giorno, San Galdino della Scala, Galdino quello manzoniano della cerca, no, è vescovo di Milano contro il Barbarossa, morto mentre pronunciava un discorso contro i Catari, insomma l'atmosfera era quella nel primo secolo del 1000, quindi figuriamoci. Dai nomi un po' particolari: Pusicio, Perfetto, Atanasia, Eleuteria, Eusebio, Ermogene, Elpidio e Antusa. Cioè quelli con la E. Oggi c'erano quelli con la E, tranne l'ultimo. Che, poi questi anche quelli con la P, perché Pusicio Perfetto e così via. Però Pusicio, insomma, quanti Pusicio conosciamo? Pochi, no, però auguri, San auguri. Perfetto auguri. Però non è male. Come San ti chiami? Perfetto. Perfetto. Perfetto. Va bene, cari ascoltatori. Pensa, se uno volesse chiamare un figlio perfetto quando cresce così. Beh, una bella, un bel coraggio ci vuole. Mamma, ci vuole. Davvero. Allora, 800240024, caro Oscar, io prima ho già detto, insomma, chiamateci a dire se avete votato o no, è il giorno dopo il referendum, le polemiche. Ecco. Ecco, io una cosa che non sopporto è la polemica sui soldi, che ha fatto, no? Anche Renzi ha detto, cioè, c'è sempre chi vince, dice, i 300 milioni si potevano risparmiare, allora aboliamo direttamente anche il referendum, insomma. No, io mi sono invitato a fare per divertimento vedere quanto è costato a Cranio. Perché non. Infatti il mio tweet diceva: cioè, quelli che costo sono della votare, democrazia. La democrazia ha un costo. Sono certo, come te. Certo, quando inizia a essere 20 euro a Cranio, inizia a dire. Ma beh, 20 euro se di ti chi fai è andato conto a votare, di chi ha votato, o di, no. o di. Cioè, se dividiamo la spesa, di che dicono italiani. Essere 300 milioni, a me non ha mai convinto questa cifra. Perché sembra bella importante, però la cifra è quella. Se hanno votato quelli che hanno votato, sì, per 300 milioni se divisi, dovessero pagare loro sono 20 euro a testa. No, è un costo, io dico un costo, io ammetto che è un costo della democrazia, però 20 euro a testa per voto valido inizia a essere una certa cifretta. Beh, 20 euro non è male effettivamente. Comunque, avete votato, non avete votato? Renzi alle 23:05, quando era chiaro, si è presentato in sala stampa, era chiaro che il quorum non sarebbe arrivato, e con toni insomma trionfalisti. L'Italia ha parlato, questo referendum è stato respinto. Assisteremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, probabilmente alla solita triste esibizione di tutti i politici vecchio stile che dichiarano di aver vinto anche quando perdono. Oscar, io una cosa, io non ho votato, l'ho detto già subito anche prima, una cosa però che non ho mai capito è perché trasformiamo tutto in Italia in un referendum, che è un referendum tecnico, in un voto pro o contro il governo di turno, in questo caso, come mai? Beh, diciamo che Renzi ci ha messo il suo, però. Cioè, questa vicenda nasce tutta per una mancanza di dialogo interno e dibattito negli organi del PD. I 7, erano 8 all'inizio, presidenti di regione tra i 10, che poi diventano 9, depositari dei quesiti, sono tutti guida PD con le regioni del centro-sud, sono personaggi di primo rilievo alla vita del partito. Lì lo scontro è stato, innanzitutto, decide il governo, riaprendo contro i veti della destra di Monti, dice, e non ci consulta. La Costituzione attuale, dicevano i presidenti delle regioni, ti obbliga a consultarci. Quella nuova che stai cambiando, no, ma questa di oggi sì. Lui non li consulta, loro dice, beh, allora fate il referendum, e loro lo fanno, e lui non li sente, poi lui fa marcia indietro. Quindi... Sì, però il referendum era su una questione precisa, hai tecnica, ragione, sulla quale gli italiani dovevano esprimersi se ritenevano. Scontro, no? Politico nel PD. Infatti ci sono i giornali, come praticamente tutti oggi, che dicono Renzi questa versus Emiliano, prima tappa, no? Verso poi chiaro, le amministrative. E poi il maxi referendum, rispetto al quale figurati i toni come saranno. Ma infatti, se il referendum per una cosa importante, io anche se non l'ho votato non dico che non sia una cosa importante, come questa, i toni sono stati questi, di polemiche, figuratevi ad ottobre quando Renzi ha legato tutto quel referendum al suo destino politico. Lì ci vuole l'elmetto e i rifugi antiaerei, perché no, ma davvero, perché immagino... un pochino di tensione ci sarà, un pochino. Comunque voi chiamateci e diteci come avete votato e se avete votato. Poi quello che colpisce è che il rilievo della polemica non è tanto quello dei relitti della destra o 5 Stelle verso è tutto interno al PD, cioè un falò, è una cosa di violenza senza pari. Dico violenza non perché credo di sbagliare il sostantivo, è mancata la misura. Ieri era evidente, no? Ciaone. A un certo punto il deputato del PD Carbone a urne aperte ha fatto questo tweet dicendo anche: vabbè, volevate il 40%, poi il 35%, ora vi accontentate di partecipare. Ciaone. Ecco, e se voleva essere ironico, invece, l'aria controreazione esprimeva una durezza, dall'idea insomma di gente che non ci può stare. Tra l'altro, Oscar, posso dire, l'abbiamo chiamato adesso, ha detto no, preferisco non intervenire, Carbone, perché non vuole evidentemente alimentare una polemica. Beh, sì, forse gli è sfuggita un po' di mano. Forse è sfuggita un po' di mano, ma lui, io sono convinto, non per questo dico che ha fatto bene, Ciaone, forse insomma non è troppo istituzionale, però lui era convinto di fare la battuta e invece si è capito subito che a nervi tesi i muscoli partono, i nervi non controllano ed è successo un vero pasticcio. Comunque con noi c'è il professor Carlo Fusaro che torna, di esperto e professore di diritto elettorale parlamentare a Firenze all'università. Buongiorno professor Fusaro, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, intanto c'è anche questa polemica che ci ha accompagnato fino al voto e ci aiuti a capire se un uomo delle istituzioni, in questo caso il Presidente del Consiglio, invita a non votare, è un reato. Secondo alcuni era un reato esplicito proprio. Lo è, non lo è, professor Fusaro? Secondo me non lo è. Quell'articolo del codice elettorale, diciamo, del testo unico della Camera che fa un riferimento, credo che faccia un riferimento a figure, a burocratiche essenzialmente, non a personalità politiche, perché lì sono sempre scelte politiche. E poi sempre il solito discorso, è un referendum con quorum, quindi è inimmaginabile che la posizione dell'astensione non diventi una posizione politicamente sostenibile. Altro è il discorso dell'opportunità. Ecco, sull'opportunità si può ampiamente discutere. Poi Oscar, questa cosa del quorum, beh, adesso la riforma lo abbassa, forse risponde un po' più ai tempi, la gente storicamente va sempre meno a votare. Effettivamente un quorum del 50% più andrebbe abolito. Andrebbe abolito posti, addirittura? Lei dice? Ma io ho sempre pensato così sin dagli anni 70. Chi è interessato ci va, chi non è interessato non ci va, e la sceneggiata sull'astensione finisce. Cioè, la logica è che magari alzare le firme necessarie per convocarlo al referendum abrogativo popolare renderlo più rappresentativo di un'istanza insomma vastamente diffusa, e però accettare l'idea che a quel punto chi partecipa decide. Ma infatti è quello che sostanzialmente c'è nella riforma, a metà diciamo, c'è un sistema che funziona già in Toscana per esempio. A proposito della quale Toscana e di altri sistemi, che siccome vi sentivo in radio prima, un sistema potrebbe essere, anche se la nostra Costituzione non sono sicuro che lasci certezze, però il deposito. Chi convoca un referendum che non ottiene almeno un certo tasso di partecipazione perde un deposito. Professor Fusaro, se lei tocca il portafoglio, guardi che poi la gente non si spende più. Però è un criterio. Però un deposito che non deve coprire ovviamente i totali 300 milioni. No, però neanche simbolico. Esatto, sì. Simbolico. Un milione d'euro, che ne so, una cosa simbolica. Però questo è. Senta, ma in realtà se uno pensa al tragitto amministrativo e poi soprattutto al referendum sul quale il Presidente del Consiglio ha messo piena la posta, cioè ha messo il suo capo sul ceppo dicendo quel referendum. Il suo capo, però, io su questo, Oscar, mi permetto di dire che lui lo dica o no, il suo capo su quella cosa c'è lo stesso, c'è il capo della legislatura, tanto per cominciare, perché questa è una legislatura che si regge esclusivamente su un patto per fare le riforme. Se cade quello, cade tutto, no? Quindi, e poi naturalmente Matteo Renzi, che qui le sfide piacciono, ci mette del suo. Ma il problema è, visto, lo abbiamo visto in questo, era un quesito che riguardava una norma del tutto marginale, con un impatto marginalissimo, eppure sembrava la scelta epocale di civiltà tra la tenebra delle energie fossili e la luce radiosa, di tutto ciò che è rinnovabile. Allora, la mia domanda è, professor Fusaro, che ne ha viste tante come me, cioè, insomma, da decenni facciamo gli osservatori e i protagonisti, gli attori della vita italiana, ma si riuscirà davvero a entrare nel merito, secondo lei, dei tanti punti? Dunque, o prevale la cosa Renzi sì, Renzi no? Ma in primis nel PD, io dico. Sì, due cose. Primo, in tutto il mondo, e qui proprio comparatisticamente parlando, tutti i referendum si colorano di accenti distinti dal contenuto stretto. Se voi pensate che in Olanda, poche settimane, 10 giorni fa, hanno fatto un referendum sul trattato dell'Unione Europea con l'Ucraina, ed è diventato il simbolo del no all'Europa. Tra l'altro, purtroppo hanno vinto i no. Ecco, voi capite, nella civilissima Olanda succede, figurati da noi. Detto questo, io penso che nel merito si stia cominciando a entrare. Io partecipo a tantissime incontri, manifestazioni di ogni tipo. Veramente penso che alla fine a ottobre sarà stata una discussione nazionale molto forte. Certo, è inevitabile che ci sia il Matteo sì, Matteo no anche. Questo però avviene, professor Fusaro, ormai da 20 anni, cioè questa forte persona, ma è una peculiarità soprattutto italiana, le chiedo. Per esempio nel panorama europeo, cioè questa forte personalizzazione, cioè siamo sempre affezionati all'uomo forte di turno. Caro amico, mi faccia fare un altro esempio. In Francia, per esempio, proprio in Francia nel 2005, quando ci fu il drammatico referendum che affossò la Costituzione Europea, se vi ricordate, semplicemente, e di nuovo ci fu anche in Olanda, ma in Francia fu tutto un referendum contro il Presidente. Ce l'avevano contro il Presidente, non ce l'avevano allora, oggi non lo so, ma 10-11 anni fa ce l'avevano esclusivamente col Presidente. È la sorte dei referendum che, a seconda del contesto politico, si colorano o non si colorano di un contenuto. Che il nucleare in Italia l'abbiamo abolito nel 1987, Oscar, che alla mia età più o meno, anche più giovane, ma insomma se lo ricorda, su un quesito marginalissimo sulla costruzione non so di quali impianti, c'era stato Chernobyl, è diventato il referendum contro il nucleare e ha ucciso il nucleare in Italia. Ma io vedo che alcuni nostri ascoltatori rilanciano invece il tema e hanno dubbi sul fatto che debba decidere chi partecipa al voto, cioè l'abolizione del quorum. Dice, ma vista la tendenza a usare il referendum su temi marginali, perché non difendere il fatto che il quorum almeno è una specie di filtro di ragionevolezza indiretta, per così dire? Sì, capisco. Possono provare a strumentalizzare, ma magari non ci riescono perché non convincono la maggioranza di quelli. Lo capisco, è un argomento, devo ammettere che è un argomento. Il referendum è un istituto delicato. Gli stessi svizzeri, che sono i maestri mondiali di referendum, come sappiamo, ogni tanto ne infilano col governo loro, che cui si accappona la pelle per le iniziative popolari, e i civilissimi svizzeri cercano di convincersi delle cose più sagge, ogni tanto fanno referendum, ripeto, per cui il governo si sparerebbe un colpo in testa, come quello sull'immigrazione e le quote che ha messo la Svizzera in tensione terribile con l'Unione Europea. Purtroppo è un istituto effettivamente che si governa male. Sì. Però ecco, da qui ad abolirlo in tempi di distacco fra opinione pubblica e rappresentanza, io ci penserei. Ci chiamano anche gli ascoltatori, Oscar e professor Fusaro. Roberto ci chiama da Bologna. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Tre cose velocissime col dono della sintesi. Grazie. Una, sono andato a votare, ho votato sì per un gesto di lungimiranza. Due, invito sempre gli italiani, dovreste farlo tutti i giorni anche voi, a dire che a non lamentarsi mai se non vanno a votare, non lamentarsi mai per nessun motivo. Va bene, se non vanno io a votare. Quindi non mi lamenterò mai più. Terza cosa, è molto discutibile l'atteggiamento del Presidente del Consiglio, che si permette di diseducare il popolo italiano dicendo di non andare a votare, punto. Vabbè, io, tu Oscar hai votato, lo vuoi dire, si può dire, hai votato o non hai votato ieri? Hai votato. Io non ho votato, vabbè, ma insomma, professor Fusaro, qui mi devo, perché arrivano tantissimi messaggi a dire ti dovrebbero levare il voto, sei non puoi più lamentare, per carità, cioè, non so, vale ancora questa cosa? Togliamo il voto, sanzioniamo chi ma non vota. È una cosa profondamente illiberale. Alla Costituente la grande discussione fu fra chi voleva il voto obbligatorio e chi non lo voleva. Intesa fu trovata su questa ambigua formula dovere civico, e Meuccio Ruini la spiega, dice: vogliamo stabilire il principio, sarà poi la legge a stabilire se è veramente obbligatorio o no. Io direi che col referendum non lo è nel modo più assoluto, e anche la legge elettorale per la Camera, modificata nel 93 e poi di nuovo per un dettaglio nel 2005, lo rende sostanzialmente, come giusto che sia, un diritto che si esercita oppure no. Io sono sempre favorevole ad andare, ma ecco, questa volta io sono in Francia, quindi sono esentato perché non potevo votare, ma sono in dubbio a dire, probabilmente non sarei andato, perché effettivamente il distacco fra contenuti reali e conseguenze, come si diceva un minuto fa, a scritte referendum era eccessivo. Esatto, cioè, perché io ho scelto proprio così, essendo stato caricato come un voto. Ma non secondo... ti sentirei mica in dovere di dover difendere. Lo spiego perché molti mi dicono, visto che per molti è stato dipinto come dire vai a votare sì perché così cade Renzi. Ah, vabbè, ma cioè, questa è la loro opinione, dire, scusami, c'entra conto. Niente col quesito. Ci rendiamo conto. Un quesito. Io sono sincero, un quesito referendario che poi nelle mani dei cittadini, la scelta strategica del paese. Ma qui stiamo parlando entro le 12 miglia, quelle che già ci sono, se deve coincidere la durata della concessione con quella dell'estrazione. Cioè, se fosse stato voti sì e non vedrai mai più una trivella in mare, voti no, le vedrai, avrei pensato di andare a votare. E dico, però, accidenti, che era una cosa molto marginale, non era questo. Marco ci chiama da Genova. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Io non sono andato a votare, lo dico perché ormai si può dire, però mi ha colpito una cosa, il quorum non è stato raggiunto, ma effettivamente di quelli che sono andati a votare, chi è che ha prevalso, il sì o il no? Perché io non lo sono riuscito a leggere, né è stato detto. Non viene fatto, credo, lo spoglio, però avrà stravinto. Viene fatto, sicuramente, come sempre. Ma non fa niente, però è interessante, almeno a livello statistico, saperlo, perché mi sembra una notizia. Poi, professor Fusaro, è interessante. Sei in genere sì, dunque, no, sì, 85%, sia 85%. 80-20. 85 forse, 85 forse. Io so 80-20, ma insomma, ma è logico per come è andata la cosa. E quindi 80% del 30% vuol dire che un 25% era così convinto da andare a votare per ottenere uno dei vari effetti. Vorrei aggiungere una cosa però, visto che ho il microfono. La riforma costituzionale, fra le altre cose, introduce il referendum di indirizzo propositivo. Sì. Ecco, fatto bene, io solo sa come lo faremo, ma fatto bene è esattamente quello che Milan diceva un minuto fa, perché invece di fare un referendum sulle stupide trivelle entro i 12 miglia eccetera eccetera, si potrebbe fare un referendum sugli indirizzi di politica energetica. Ecco. E allora forse sì, perché ricordiamo il referendum in Italia, esatto, è abrogativo, cioè si può abrogare una legge, ma insomma quello propositivo, la dice il professor Fusaro, potrebbe essere confermativo che vedremo a ottobre, in cui il quorum non c'è, quindi a ottobre quello confermativo decide chi partecipa. Esatto. Ma bisogna andare. Per concludere lì, professore, il fatto che proprio politicamente, un commento politico, che Renzi leghi tutta la sua permanenza politica, anche se un po' lei già ci ha spiegato che di fatto è così, a quel sì al referendum confermativo, è un qualcosa di come lo legge lei? È una cosa positiva, è una cosa sbagliata? Ma io penso che sarebbe bene, come suggerivate voi, concentrarsi sui grandi meriti, a mio avviso, della riforma, che ha i suoi difetti naturalmente, come tutte le cose di qualsiasi Parlamento, dove si fanno accordi, compromessi, compensazioni, eccetera. Però la sostanza c'è rilevante, sarebbe fare un gran passo alle nostre istituzioni, piuttosto che appunto fare una cosa estremamente personalizzata. Però bisogna anche tenere conto che questo è un governo che si sente dire dagli avversari ogni giorno: ah, voi non siete diretta espressione della sovranità popolare, da da da da da, e questo coglie un'occasione che crede vittoriosa e anche utile per il paese per una legittimazione politica. È difficile per me esprimermi da tecnico. Sì. No, no, è una questione politica. D'altra parte, ecco, Renzi ha molti difetti, ha quest'aria un po', no, scansonata, giovanile, a toscanaccio, con la battuta sempre in bocca, a volte arrogantello, però è uno di quei politici che mette sul piatto quello che ha, rischia, sa che può perdere, il che, a dire il vero, è degli statisti, ecco, non di quelli che mirano a campare, capito? Io in questo mi piace, gioca tutto, più che cioè, gioca tutto, rischia. Professore, noi la ringraziamo, grazie davvero, Carlo Fusaro. Grazie a voi, grazie, grazie Oscar, grazie. Grazie, grazie, perché si potrebbe dire che, insomma, più dello statista, a volte sembra avere del gamble, cioè del scommettitore professionista, come devo dirti, cioè di quello che non si capisce se poi bleffa, la posta in mano ce l'ha o meno tra un Gottardo e l'altro, voglio dire. Gottardo. Perché quello ti dà l'idea di uno che tam, no, parla così, dici, vai Gottardo, ma no, cosa vuol dire? Lo so benissimo, ma da quello che abbiamo capito non si capiva che lo sapesse. Se vuoi, però, tra poco, dopo la pubblicità, lo facciamo sentire. No, ma non ci tengo, vabbè. Ma dico solo che la parte del personaggio, per esempio, ieri pomeriggio, quando secondo me era evidente che il dato delle 12 della mattina in qualche misura portava gli più convinti tra i sostenitori dell'abrogazione della norma a essere convinti che il quorum si poteva fare, Emiliano ha tambureggiato tantissimo, no, nelle televisioni, sì, nelle informazioni, sì, ed era evidente che era così, e ricorreva sistematicamente l'invito Renzi, che non è eletto, rispetti noi presidenti che siamo eletti, sì, quindi sì, questo, sì, punto è fortissimo oggi sulla stampa, è vero. Comunque, 3 minuti di pubblicità, chiamateci ancora 800 24 00 24, mi insultano tutti, Oscar, perché non ho votato, ma no, va bene così, sarebbe altro, tra poco. Noi siamo l'unico paese al mondo che in questo momento sta facendo 3 opere strepitose. Noi abbiamo 3 tunnel che sono il, ovviamente a livelli diversi, il Gottardo che si inaugura il 1 giugno con la Svizzera, il Brennero che abbiamo sbloccato noi, Gottardo, e che ci collega con l'Austria. Lui sta dicendo tunnel, chi dice tunnel, poi dice tu. Vabbè, comunque il Gottardo in Svizzera. Il Gottardo, poi sì, ha detto: no, ma lo sapevo, intendo che collega, sì, l'Europa. Sì, sì, alla... La cosa terribile dal video è che Del Rio a fianco sentiva. Sì. Non so se hai visto le immagini, sì, Del Rio. E la cosa terribile è che poi lui lo ha chiamato in casa Renzi, ha detto anche Del Rio, dicevo, sì, cioè è una bella gara, devo dire, la solidarietà. Vabbè. Comunque, i risultati del referendum, per essere precisi, vedi, i sì sarebbero sono stati l'85,84%, 85 a 15, di fatto. 15%. Diciamo, però il quorum, se fosse stato l'election day, cioè se si fosse votato giorno delle amministrative e così via, temo che Renzi le avrebbe prese. Dici. Temo di sì. Va bene, Simone ci chiama da Milano. Simone, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Eccoci. Volevo dire, io non sono andato a votare. Non è andato? Non sono andato a votare perché sinceramente mi affido, diciamo, a quello che dice Renzi. Non perché... Renzi ha detto, ha parlato e Simone mettano, ha eseguito. La mettono non in un organo. Renzi ha proferito il verbo, non per quello. Però... È perché mi fido di quello che dice lui, nel senso che mi sembra che dica delle cose sensate. La fanno vice segretario, Simone. No, sto scherzando. No, vabbè, ma dice seguo, cioè crede politicamente in quello che dice Renzi, e quindi Renzi ha detto sarebbe bene non votare, e lei non ha votato, questo è. Sembra che le dica delle cose sensate, anche perché andare a votare su un argomento del genere, tecnico, io non sono un tecnico, non so assolutamente quelle cose. Quindi devo affidarmi per forza a qualcun altro. Vabbè, a qualcuno, sì. E lei ha scelto di affidarsi a Renzi. Va bene, Simone, è una scelta anche questa. Renzi nostro che sei nei cieli. Sia fatto le faccio ascoltare Matteo, un altro Matteo da Roma. Matteo da Roma. Precisiamo. Matteo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Matteo. Buongiorno. No, ragazzi, io volevo spostare il problema, nel senso di a mio avviso. Non vorrei mettere in discussione lo strumento del referendum, ma la modalità di voto. Cioè nel 2016 noi ancora votiamo nella sezione con la carta, le cose la carta, cioè nel 2004 le europee, poi le regionali e poi le politiche furono fatte delle sperimentazioni per lo scrutinio elettronico in alcuni paesi d'Italia, poi è sparito tutto. In alcuni paesi del mondo si sta già provando a votare quasi come sperimentazione nei bancomat. Non dico di arrivare al bancomat, perché immaginate che velocità e a quanto abbatti i costi, la velocità di risultato, non hai le schede nulle e la facilità. Io ieri non ho votato perché non ero semplicemente a casa, non ero vicino a casa, quindi non potevo. Matteo, lei ha ragione dal punto di vista tecnologico. Ricordo a tutti che per esempio nei diversi stati americani ci sono proprio, si vota tecnicamente in maniera diversa, ci sono ancora le vecchie cose con le bollette, ci sono i procedimenti tecnologici. Sa perché, Matteo, la tecnologia lo consentirebbe da decenni, sa perché in realtà non si fa? Perché nessuno si fida delle alterazioni che si avrebbero tecnologiche, mentre invece i pezzi di carta restano per i controlli. Per quanto possa sembrare ridicolo, ci sono stati brogli a volte anche, spariscono, anche lì, però si vede se spariscono. L'alterazione digitale, uno potrebbe dire, ma oggi restano le impronte digitali, chiunque hackera. Sì, se hacker al Viminale, magari, che però è detentore del server, eccetera. Allora, il motivo però, per cui Oscar, noi restiamo preistorici è questo. Nel momento in cui tu inserisci alla fine in un computer, alla fine inserisci il dato in un computer, in quel momento si può taroccare se uno lo vuole fare, no? Cioè non è che si conta proprio a un'accurata indagine restano dei fingerprints, delle impronte digitali. Certo. Mentre invece... Però, allora, io da una parte sono anch'io, la penso come Matteo, non ha senso avere queste procedure preistoriche. Dall'altra, però ti ricordi la famosa elezione in Florida contestata, Bush, c'erano tantissimi che dicevano ho votato così ma è stato letto in un altro modo dalla macchina elettronica. Insomma, diciamo che però l'idea di abbattere i costi è un'idea giusta, diciamo, di principio. Poi a parte puoi capire, l'immediatezza sarebbe anche una proliferazione, renderebbe più facile consultarci. E questo è vero. Comunque, caro Oscar, noi dobbiamo parlare, non parliamo solo di referendum, vogliamo concentrarci qualche minuto finale di trasmissione a quello che sta succedendo a Roma. Tronca, noi diciamo sempre tronca, no? Sta anche cercando di portare un po' la legalità per quel che riguarda l'occupazione di edifici pubblici del Comune di Roma da parte di... E non solo, perché ha riaperto l'indagine, si sono scoperti gli armadi con tutte le indagini sui dipendenti di Roma che erano state lasciate a dormire. Pensa a questi vigili urbani, l'hai visto? Vigili urbani, 15 anni fa per traffico di auto rubate, vigili urbani, azione disciplinare sospesa, quelli sono rimasti sono in servizio, penalmente posto. Prescritti, viva via. E grazie a Tronca lo sappiamo. Però, insomma, ci sono anche degli sgomberi di immobili programmati che ci hanno fatto un pochino pensare. Per esempio, vogliamo salutiamo e ringraziamo qui con noi Mauro Pichezzi, che è presidente di Viva la Vita, una onlus che si occupa di malati di SLA, quindi una malattia degenerativa molto molto, molto grave. Sì. Pichezzi, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno. Allora, voi siete, diciamolo brutalmente, sotto sfratto, rischio di sgombero, perché ci spieghi com'è la vostra situazione? Sì, no, diciamola brutalmente, noi siamo stati sgomberati, nel senso che sono venuti a sgomberarci con il fabbro, i facchini e quant'altro, per cui lo sfratto c'è stato l'anno scorso. Noi pensavamo di aver preso delle misure adeguate, inserendoci ancora nel discorso della burocrazia, no? E delle sue difficoltà. E invece ci siamo visti il 6 aprile presentarci le forze dell'ordine, ripeto, in assetto di sgombero, per cui ci hanno un po' colto di sorpresa. Ma noi perché? Abbiamo... Ci aiuti a capire, cioè voi siete in un immobile... Noi siamo in un immobile comunale. Sì, l'abbiamo avuto in assegnazione nel 2009, regolarmente, poi abbiamo pagato un canone e continuiamo a pagarlo regolarmente. Di quanto? Adesso lo paghiamo 270 euro mensili per 60 metri quadrati, secondo ciò che il Comune di Roma stabilì. Per cui noi abbiamo, come dire, eseguito esattamente le indicazioni del Comune. Sì. Abbiamo attivato un contratto con la CEA, con la luce, per cui siamo autonomi, regolari e paghiamo regolarmente. Però voi pagate, questa è una cosa un po' strana, nel senso che i casi vabbè, di sgombero i casi di sgombero sono per chi non paga per anni, eccetera. Perché voi siete sfrattati, se pagate? L'assurdità è questa, che nell'operazione, tra l'altro giusta e giustificata, di riordino dell'assetto degli immobili comunali e degli affitti, e evidentemente non siamo tutti nella stessa condizione. La burocrazia a volte è un mostro senza testa, si muove senza guardare bene e fa tutto un erba un fascio, e alla fine all'interno di certe operazioni purtroppo cadono anche soggetti che forse non meritano questo trattamento. Però è un errore secondo lei tecnicamente Oppure... Ma non secondo me, c'è una sentenza del TAR che è uscita recentemente, che io personalmente poi ho fornito al commissario Tronca. E no, ma su che basi vi sgomberano? Cioè, visto che voi pagate l'affitto, guardi, e avete un contratto... Sì, ma lo sfratto quando arrivò aveva la motivazione che l'immobile serviva al comune per una biblioteca comunale, per cui lo voleva indietro per altri motivi. E effettivamente questo il TAR ha detto che non può essere fatto, per una serie di motivi giustificati, tecnici in sostanza, e per cui il comune pare che abbia commesso un abuso in questo richiederci l'immobile. Adesso stiamo chiarendo la situazione, ripeto, contestualizzando il discorso all'interno di quello fatto poc'anzi, insomma, ci sono alcuni meccanismi burocratici che davvero sono difficili. Una comunicazione più diretta avrebbe risolto il caso. Infatti Tronca due giorni fa, caro Oscar, ad Avvenire ha detto: noi, io non voglio apparire come quello Tronca stronca, no? Voglio il ripristino della legalità in un discorso però solidale, proprio per non arrivare alla cieca burocrazia che non vede. Giusto, purché però, io lo dico subito, siccome sono tanti casi anche di partiti che non pagano, purché non accomuniamo le eroiche Ollus che sono impegnate in questo campo coi partiti, perché i partiti, se vogliono gli affitti se li pagano. Questa è la mia. Intanto, se posso, grazie per l'eroico, però noi in realtà facciamo una cosa come volontari che francamente, insomma, paradossalmente non vorremmo fare, cioè erogare servizi ai malati di SLA e alle loro famiglie dovrebbe spettare d'ufficio alla sanità e al sociale. Noi come volontari cerchiamo di colmare delle lacune. Ora, il problema di essere confusi con altri, esiste. L'importante è avere gli strumenti e la possibilità di chiarire. Tronca ha accolto le nostre istanze, ha detto seriamente che se ne sarebbe occupato proprio in queste ore. Noi aspettiamo, anche perché il 6 maggio prossimo torneranno le forze dell'ordine a sgomberarci stavolta definitivamente. E allora, guardi, noi prendiamo l'impegno, prendiamo l'impegno per quello che possiamo fare. Mauro Pichezzi, intanto la ringraziamo, ricordiamo il presidente di Viva la Vita Onlus, si occupano i malati di SLA, 6 maggio è la data, però Tronca, che secondo me ha dimostrato di sapere anche avere ascoltare, l'orecchio, no? Ecco, di avere l'orecchio, vedremo che insomma succede. C'è chi si affida a Renzi, noi ci affideremo un po', forse un po' più a Tronca. Tronca, però, è così, dico sinceramente. Allora, caro Oscar, è iniziata la settimana e niente. Settimana e noi andiamo avanti. C'è un consiglio dei ministri in arrivo, provvedimenti altri sulle banche, ci sono tante cose importanti. C'è la destra che è sempre lì che dice Bertolaso, ma quando decideranno? Maggio c'è la presentazione delle liste, lì sarà la sera prima, faranno tirano con i fiammiferi, con i stuzzicadenti, ci sei o non ci sei? Vabbè, ciao a tutti. Ciao, hai ragione. Ciao.